Non è la notte ad oscurare la realtà, non è il dolore che dentro ti stritola. Senti la voce uscire armata di una strana follia, e la ragione che scivola via. Ma non ti hanno insegnato a proteggerti da questa rabbia. Cerchi la calma, cerchi la domanda giusta, a una risposta che ormai si è dispersa. Cerchi un valore, un ideale, una filosofia, una ragione qualunque essa sia. Ma rimani impigliato a una logica e a una coerenza che non è tua. Stai impazzendo e non sai perché. Prendi fiato e poi devi anche chiedere scusa se quello che uscirà non sono parole d'amore. Essere preso ancora soli in faccia, è dura un istante capire, un istante esplodere, guardare il mondo negli occhi, sorridere.